Giovedì 23 giugno del 2016, Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, ci ascoltate su queste frequenze, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ci ascolta la diretta. Questa è Visionari, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 e cominciamo spesso anche in anticipo. Per sapere di più sulla scaletta e la trasmissione basta consultare il sito, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Marco Cassini, regista del film La notte non fa più paura, mi sono corretto in scaletta perché all'inizio avevo segnato documentario, ma è un film di finzione, giusto Marco? Giusto, ciao a tutti. Ben ritrovato su queste frequenze a Visionari su Radio Onda Rossa. Noi ci eravamo sentiti proprio per lanciare la campagna di crowdfunding per questo lavoro che inizialmente doveva avere un altro titolo e poi invece è diventato La notte non fa più paura. Raccontaci un po', Marco. Intanto grazie per avermi ospitato in questa vostra trasmissione, vi stimo tanto e vi seguo molto spesso. Bene. Sono molto contento di come stiano andando le cose. Il film, come giustamente facevi notare tu, partiva con il titolo provvisorio di Terremotati. Sì. Era un film sul terremoto dell'Emilia, poi pian pianino ci siamo resi conto che il titolo migliore era La notte non fa più paura, per l'appunto la storia di due ragazzi che fanno amicizia nel difficile momento della crisi economica del 2008 e poi arriva il terremoto che scuote le loro vite in maniera probabilmente indelebile. Qual è stato il punto di partenza che vi ha fatto venire l'idea di questo film? Guarda, la partenza è la passione per il cinema. Io lavoro nel cinema da 10 anni ormai, però era sicuramente la voglia di voler fare un'opera prima con un significato profondo, ecco. Mm-hmm. E allora ho scritto la sceneggiatura insieme al Comitato Emilia Vite Scosse, è un comitato che si è formato dopo la morte degli operai sul lavoro fondamentalmente, quindi capisci che impronta fortemente realistica che ho cercato di dare a questa drammaturgia, no? A questa sceneggiatura. Sì. Nel film non si fanno sconti, nel film si rappresenta l'Italia com'è davvero. Mm-hmm. E questa cosa mi fa molto piacere perché poi le persone vedono il film e dicono: Marco, siete riusciti a fare una cosa molto vicina alla popolazione, no? È una cosa che il cinema probabilmente si sta dimenticando. Mm-mm-mm. Marco, per chi è all'ascolto, ricordiamo un po' cosa ha rappresentato quel terremoto? Certo. Il sisma del 20 e 29 maggio è stato il sisma dei lavoratori in Emilia. Sì. Sono morte 27 persone, danni per circa 600.000 euro. E poi successivamente la rimessa in sicurezza di tutti i capannoni, appunto, della regione suddetta. Però al di là dell'Emilia, ecco, questa è un'altra cosa che abbiamo sempre pensato quando abbiamo cominciato a scrivere il film, no? Ci siamo detti, rappresentare una situazione così drammatica che possa raccontare anche altre situazioni drammatiche che si sono vissute in Italia. Mm. Io per esempio sono abruzzese, all'Aquila lo sapete tutti cosa è successo. Sì. Insomma, questo è un film che vuole sì parlare alla terra dell'Emilia, ma che in realtà è un po' una metafora di quello che è il nostro paese in questo momento. E nonostante la drammaticità di questo evento, insieme appunto al Comitato Emilia, insieme a tutti gli altri artisti che con me hanno collaborato, abbiamo cercato di dare una visione positiva, nonostante tutto. C'è un finale che poi vi invito a vedere, insomma, poi scriveteci sulla pagina Facebook, c'è un finale molto particolare, un finale di grande ottimismo in realtà. Mm-hmm. Senti, come ti sei mosso poi per la realizzazione del film dopo la campagna di crowdfunding? E ti ringrazio tra l'altro per averci ospitato nei momenti iniziali che sono sicuramente stati più difficili, come potrete immaginare. Ci siamo mossi così con privati che si sono prestati alla causa fondamentalmente, tra tutti Maria Rita Storti, che pensate è un insegnante di Codicoro, che è un piccolo paese in Emilia Romagna, che quando ha letto la sceneggiatura ha detto: ragazzi, non si può non fare questo film. La cosa bella è che nessuno ci dava 2 lire, perché un film, non mi vergogno a dirlo, cioè, l'ho girato con 30.000 euro e lo abbiamo girato in 8 giorni, ma è la passione, la forza, la voglia che ci abbiamo messo, che ci hanno portato fino all'Istituto di Cultura Italiano di Bruxelles, abbiamo vinto al Valdarno Cinema 13 solo qualche settimana fa, e pensa Federico, tra poco andremo in Parlamento il 18 luglio perché vogliono vederlo lì, quindi per me è un miracolo, è una bella storia da raccontare. Partito del tutto dal basso, completamente dal basso. Sì, senti Marco, sì, per la distribuzione come sarà? Allora, noi stiamo creando degli eventi, ci muoviamo a Roma, a Firenze, a Bologna, a Ferrara, in Abruzzo anche lo abbiamo presentato. Stiamo creando delle piccole anteprime che poi in questo modo riusciamo a far conoscere il nostro film, le persone possono parlarne, capito? E quindi stiamo creando, diciamo, questo piccolo trampolino di lancio in attesa di trovare una distribuzione degna. Che, sai, nel cinema adesso magari ti tengono il film una settimana e poi te lo fanno sparire, e questo è un film secondo me che può avere un po' più di margine, ma come tutti gli altri film italiani che vengono realizzati. Allora, sì, per cercare di non farci inghiottire, diciamo, da questo tornado, da questa macchina, stiamo cercando di fare degli eventi coinvolgendo anche gli attori protagonisti, gli sceneggiatori del film, la produttrice. Ogni volta che il nostro film viene proiettato noi ingaggiamo una vera e propria assemblea con tutte le persone che vengono a vedere il film. Bene, sì. E questo è un po', è bello perché comunque ti riappassioni un po' al lavoro del cinema. Sì. La cosa bella è che è arrivato un critico molto importante recentemente che ci ha detto è un film di grande stampo neorealista, anche per come è stato realizzato. E per me questa è una grande soddisfazione, perché noi lì vogliamo ritornare, cioè a quello che eravamo, come popolo, no? Siamo stati i primi ad esportare il cinema nel mondo. E secondo me, partendo da queste storie così appassionanti, abbiamo la possibilità di poterlo fare, senza nulla togliere a Perfetti Sconosciuti, Gig Robot, che sono espressioni meravigliose di cinema italiano. Sì, sì, sì. Marco, per saperne di più, anche per mettersi in contatto con voi, ci lasci dei riferimenti web? Certo, ci sono le pagine dedicate di tutti gli artisti, Stefano Muroni, Walter Cordopatri, Marco Cassini, che sono io, vi potete collegare alla pagina, la gestisco io e vi rispondo ogni volta che mi scrivete. E poi c'è la pagina del film, che è La notte non fa più paura, il film. La notte non fa più paura, il film. Chiudiamo anche con la spiegazione di questo titolo? Sì, le scosse avvengono di notte purtroppo nel film, anzi una delle due scosse, è un po' quello che è successo anche all'Aquila, no? Sì, la scossa terribile delle 3 del mattino. Allora ci siamo detti, speriamo che questa notte non ci faccia più paura un giorno, e quindi abbiamo dato una... Con il finale di cui ti parlavo prima, ho cercato di dare un po' questa piccola metafora, se vogliamo. Comunque venite a vederlo il film e poi insomma fatemi sapere perché ci tengo. Bene, allora Marco, io ti abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, allora a presto. Ciao Marco, okay. A presto. Ciao. Marco Cassini, regista del film La notte non fa più paura. Eccoci con Antonio Giuliano di Bunker Hill per parlare della distribuzione del film Gueros, in uscita in sala oggi giovedì 23 giugno. Antonio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. Raccontiamo un po' brevemente la trama di quest'opera, Antonio. Allora, la trama di quest'opera è irraccontabile perché è un film con una trama un po' particolare, nel senso che ha diverse sottotrame che iniziano e non finiscono. È un film non lineare sia nello stile visivo che nel racconto. Diciamo, il plot è la ricerca di un idolo di gioventù che è Pigmenio Cruz, definito stesso dai protagonisti del film l'anonimo eroe del rock messicano. Loro vanno alla ricerca di questo personaggio che è un po' una meteora, è stata nel rock messicano, ovviamente un personaggio di pura fantasia, ma ovviamente per loro rappresenta una simbologia forte, perché sono dei ragazzi in un momento di trapasso, diciamo, dall'età adolescenziale alla vita adulta, e quindi la ricerca di questa rock star mai divenuta veramente una star, in realtà è un viaggio interiore che loro fanno verso l'età adulta, ecco. Senti, uno stile molto personale, bianco e nero, spesso camera in movimento, riprese asimmetriche, raccontaci un po' di quest'opera, di questo regista anche. Sì, allora, il regista è un'opera prima, è un regista messicano, si chiama Alonso Ruiz Palacios. Io per lavoro da anni frequento tutti i festival e mercati internazionali, quindi guardo tantissimi film, perché noi siamo dei distributori internazionali principalmente. Quando ho visto Gueros è stato un colpo di fulmine immediato, ho detto no, questo film va assolutamente portato in Italia, perché è un film veramente straordinario da tutti i punti di vista e che secondo me diventerà negli anni a venire un film cult. Ha un linguaggio innovativo e retro allo stesso tempo, ci sono citazioni più o meno nascoste, altre invece più esplicite a tutto il cinema degli anni 60, della Nouvelle Vague, o comunque al cinema personale dei grandi autori come Fellini, Godard, Lubitsch e altri di quel periodo, però sono rimescolati con la consapevolezza e la lezione del cinema moderno. Sì. Quindi insomma è un'opera prima molto particolare, perché sembra veramente che sia un regista scafato al suo 30° film. quindi aspetto con ansia già il suo secondo film, perché se è partito così, questo sarà sicuramente un grande che ci farà divertire tanto nei prossimi anni. La storia è fissata nel tempo, qualche anno indietro, e però ci sono dei riferimenti ad una attualità messicana, come ad esempio la mobilitazione studentesca, che è sempre di attualità. Sì, in realtà il film è fissato al 1999 come storia, ma in realtà è un film sia per tematica che per linguaggio è un film attuale. Diciamo che non è un film sulla rivoluzione tra virgolette studentesca dei moti del 99 messicani, ma è un film sulla rivoluzione in senso lato, e quindi qualsiasi tipo di rivoluzione, anche la rivoluzione interiore. Senti Antonio, quali sono stati gli elementi così sinteticamente che ti hanno folgorato vedendo questo film? Beh, allora, innanzitutto la poesia. Sì. Perché è un film veramente con una poesia eccezionale, priva di ogni retorica, è un film leggero, mai pesante, con un'ironia sottile ma non compiaciuta. Di compiaciuto c'è solo la regia, che ci sono proprio delle azioni registiche che erano evidenti divertimenti del regista, ma che comunque alla fine sono tutti regali per il pubblico, perché divertono e intrattengono. Alla fine un film, per quanto importante, per quanto possa comunicare tantissime cose, un film è e deve essere secondo me sempre intrattenimento, e Gueros è intrattenimento proprio di primissima qualità. Oh, tra l'altro Gueros fa riferimento ad un insulto. Sì, Gueros in realtà, come spiega il film all'inizio, proprio prima di iniziare c'è un cartello che descrive l'etimologia della parola. Deriva da uovo bianco e viene usato in senso lato per le persone bionde, ma in realtà l'accezione corrente è dispregiativa, serve per individuare le persone che hanno pelle bianca, capelli biondi, insomma che sono di etnia europea, in senso dispregiativo come di straniero invasore, un po' come dire gringo, ecco, per capirci. Così questa è l'accezione che usano i messicani, ovviamente invece di etnia no, più indigena, quindi più scuri. Sì. E visto che i due protagonisti del film, i due fratelli, sono uno è scuro, quindi diciamo carnagione messicana 100%, l'altro invece è un güero, è biondino, e quindi già da questo si capisce che forse, no, nella loro famiglia c'è stata una qualche mescolanza. Per tutto il film c'è sempre, ogni volta viene presentato il giovane Tomas, il fratello più piccolo: ah, ma tu non sei scuro come tuo fratello. Senti Antonio, oltre all'occupazione dell'università, un altro riferimento importante alla società messicana è la evidente divisione classista, perché anche questo si vede per esempio quando arrivano ad un locale frequentato da cineasti, insomma l'intelligenza artistica del Messico, e loro fanno la figura dei proletari, insomma, che vengono visti di cattivo occhio. Certo, sì, quella è una scena, è un momento di grande ironia, ma anche di un'ironia feroce, a mio avviso, perché è più che una presa in giro, è proprio una denuncia ironica di quello che è il mondo radical chic, come in Messico e in tanti altri paesi, quindi è facile fare anche assonanze con l'Italia. Quindi i personaggi si trovano a una festa prima di un film che dovrebbe essere un film intellettuale di sinistra, eccetera eccetera, ma alla fine tutte le persone lì coinvolte non comunicavano tra loro, stavano con gli smartphone in mano, nonostante sia il 1999. Il regista si è divertito a fornirli di smartphone e a far vedere, a mostrare personaggi che erano a tutti gli effetti degli zombie rispetto ai nostri protagonisti, che invece duri e puri vivono questa avventura on the road per la città, che esprimeranno pure una forte vitalità, insomma. Sì, esatto. Senti Antonio, per la distribuzione come sarà la distribuzione? Allora, il film da oggi è disponibile in alcune città, diciamo il film oggi è a Roma, Milano, Perugia, Trieste e Cagliari. Dalla settimana prossima si aggiungeranno altre città, ad esempio Torino e Napoli, e ovviamente essendo un film non distribuito da una major company, perché noi siamo una piccola distribuzione indipendente, abbiamo deciso di portare questo film in Italia, ma per fare un regalo al pubblico italiano, non facciamo parte dei grandi giochi distributivi, dei grandi player nazionali, quindi è difficile trovare gli spazi. Abbiamo avuto la fiducia di queste piazze e puntiamo più che su un primo fine settimana, su una tenitura, perché speriamo veramente che il film possa circolare il più possibile, che veramente merita di essere visto. Quindi da questa settimana Roma, Milano, Perugia, Trieste e Cagliari, dalla prossima anche Torino, Napoli, e si stanno aggiungendo altre città man mano, e il film poi speriamo che resti tutta l'estate. Alcune piazze già ce lo stanno chiedendo per la riapertura di fine agosto inizio settembre, quindi insomma chi avrà l'opportunità di vederlo al cinema se lo vado a vedere al cinema, perché fra musica, regia e fotografia è veramente un'esperienza bellissima. Vedere questo film in grande è indescrivibile. Chi purtroppo non avrà la fortuna di vederlo in sala lo può vedere lunedì sera alle 21 su My Movies Live e Nuovo Cinema Repubblica in streaming gratuito. Quindi chi non ha la possibilità di vederlo al cinema lo può vedere lunedì prossimo alle 21 in streaming. Antonio, io ti ringrazio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi. Ciao. E ciao a tutti quanti. Ciao. Ciao. Antonio Giuliano di Bunker Hill sulla distribuzione del film Gueros, in uscita in sala oggi giovedì 23 giugno. Ritroviamo Luca Ferrari, regista del documentario Showbiz, che sarà in programmazione all'Isola del Cinema qui a Roma oggi giovedì 23 giugno. Luca, ben ritrovato. Grazie Federico, ciao a tutti. Allora, raccontiamo un po' di questo tuo ultimo lavoro, Showbiz. Di cosa si tratta, Luca? Allora, si tratta di un viaggio all'interno, insomma, un viaggio nella notte romana, fondamentalmente, ed è il racconto di quattro personaggi della notte romana, alcuni anche di una certa età, che si incrociano e che, diciamo, aspirano ad essere personaggi del mondo dello spettacolo. In breve, uno dei personaggi si chiama Riccardo Modesti, che ha 75 anni e da più di 20, cioè circa 28 anni esattamente, è il patron di Miss Intimo, che è una serie di sfilate in giro per alcuni localetti romani, anche non solo, anche insomma intorno a Roma. Poi c'è Massimo Marino, il grande Massimo Marino, che chi è dentro nelle questioni notturne romane lo conosce bene, che gira invece per locali notturni pornografici, strip club, ristoranti a intervistare pornostar e non solo, con la sua televisione che si chiama Vivi Roma. Poi c'è Stefano Natale, che è il grandissimo amico di Carlo Verdone, al quale Verdone si è ispirato per il suo personaggio di Mimmo. E poi c'è Schulz, che è lo storico microfonista del Maurizio Costanzo Show, e loro si incrociano e vivono le notti romane, vanno in discoteca come dei ragazzini, e sono malinconicamente imprigionati nei loro personaggi, della rappresentazione che loro hanno di loro stessi in qualche modo. Come viene fuori? Penso sarebbe stato sintetico. Come no? Senti Luca, come viene fuori il progetto? Il progetto viene fuori grazie a Valerio Mastandrea e la Chimera Film. Io ho rapporto con Valerio dai tempi, avevo fatto un primo documentario che è stato anche ospitato da voi, certo. Si chiama Pezzi, sulle periferie romane. L'esperienza professionale è stata molto positiva, e una domenica mattina mi ricordo Valerio che mi ha buttato giù dal letto, mi ha detto: lavate come piatti, scendi, sciacquate e scendi giù, che ti propongo una cosa. E mi ha fatto vedere una foto di Riccardo Modesti e Schulz al Bar Vanni, che è un storico bar di Roma dove vanno tutti coloro che lavorano alla RAI, quindi loro stanno lì seduti facendo parte del loro personaggio in qualche modo. Insomma, perché no? Guarda su YouTube questo Riccardo Modesti, guarda se ti interessa, secondo me si può fare un qualche cosa che in quel periodo era uscito La Grande Bellezza, in quel periodo là. Sì. E perché non proviamo a raccontare un lato B della Grande Bellezza, diciamo, un aspetto meno intellettuale, però non meno malinconico. Senti, ecco, io mi sono impegnato anche a raccontare in maniera trasparente anche con loro un po' anche la loro solitudine, perché comunque non so, Schulz ha 75 anni, anche Riccardo ha 75 anni, e comunque sono uomini anche soli, no? nel loro essere, provare con essere ancora adolescenti. Ecco, parlavi di solitudine, malinconia, che impressioni ne hai ricavato da seguire questi personaggi? Tantissimo. Io lo reputo, a prescindere poi da un pregiudizio, uno stereotipo che uno potrebbe avere, no? Cioè qualcuno potrebbe giudicare le persone, alcune, insomma, una parte di questo ambiente è un ambiente anche volgare, ma in parte lo è, ma non è che. Però io mi sono. Voglio molto bene a tutte le persone, insomma, queste persone che ho raccontato, e sono fondamentalmente delle persone molto molto molto buone, e questa bontà rende anche la volgarità in qualche modo ingenua e innocente, e questa qua secondo me è la cosa che più penso di essere riuscito a raccontare. Insomma, c'è molta umanità nel racconto che faccio, perché potrebbe essere poi in contraddizione, no, con sì. Che ne so, non voglio dire parolacce, però insomma locali con queste ragazzine abbastanza vivaci, no, che comunque cercano di entrare nel cosiddetto mondo dello spettacolo. Ma non sarebbe sbagliato da parte mia dare un ulteriore giudizio su una stagione che è già stata raccontata in tutte le sue sfaccettature. Sì. Chi sono io per dire qualcosa in più? Quindi forse è più disarmante raccontarla per quello che è. Senti Luca, che percorso sta facendo Showbiz? Showbiz è andato al Festival di Roma a ottobre dello scorso anno, e ha avuto un'ottima reazione, insomma, da parte soprattutto dei critici, ovviamente, perché a parte le proiezioni che ha avuto a Roma, ora stiamo con la Chimera Film. Abbiamo avuto anche un contributo dal Ministero, che è stato ovviamente molto importante per la realizzazione del film. Con la Chimera Film stiamo cercando di distribuirlo attraverso eventi come quello di stasera all'Isola del Cinema alle ore 22, con delle persone che possano presentare anche stasera. A presentarlo ci sarà Marco Giusti, che è stato un fan della prima ora del film, e ha scritto molto bene. Quando gli ho chiesto di venirlo a presentare, insomma, era molto contento, mi ha fatto molto piacere. Poi per lui, insomma, il film è molto straculto, no? come lui lo ha definito. e quindi insomma fa piacere anche che insomma che venga anche lui a presentarlo, insomma è la persona giusta per presentare questo film, pure col montatore che Adriano Patruno, quando stavamo montando il film, da questo film deve piacere a Marco Giusti, ma proprio come battuta poi alla fine gli è piaciuto e quindi sono stato molto contento. E quindi stiamo organizzando proiezioni, evento, in attesa di una distribuzione un pochettino più stabile. Benissimo, senti, ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più? All'evento di stasera c'è Showbiz all'Isola del Cinema, e qualsiasi cosa anche si può andare su Facebook, l'evento si chiama l'evento Facebook, sì, Showbiz all'Isola del Cinema, per qualsiasi cosa si può andare lì per questa sera. E poi c'è sul sito della Chimera Film, ci stanno tutti gli aggiornamenti riguardo a proiezioni e a distribuzione del film. Senti, un'ultima curiosità rispetto agli anni d'oro di questi protagonisti, com'è cambiato il mondo notturno romano? Una parte di questo mondo notturno romano è legata alle TV private. Sì. Lo stesso Modesti che faceva, che quello che dicevo prima, delle sfilate di Miss Intimo, conduceva, che poi nel film c'è stata negli primi anni 90, una trasmissione sulle TV private romane. E io, attraverso ciò che io posso vedere ora sulle TV private romane, ciò che vedevo prima sulle TV private romane, a me mi sembrava che ci sia un pochettino, più o meno, secondo me è cambiato poco. Fondamentalmente sono gli stessi personaggi che sono invecchiati, però poi ci stanno altri personaggi che tendono a sostituirli, questi personaggi. Ovviamente la TV commerciale è stata così straripante negli ultimi 20 anni che ha cambiato anche la psicologia delle persone che poi frequentano alcuni locali. Io ho frequentato molto il Gilda di Roma dove Riccardo faceva le feste, le fa tuttora per il suo compleanno. Dal mio punto di vista è stato molto divertente perché è un bar ancora arredato come negli anni 70 e ci trovi gli stessi codini, no? Gli elastici, i capelli lunghi col codino però imbiancati. Questa cosa mi ha interessato raccontarla. Sì. Bene Luca, io ti ringrazio, ricordiamo l'appuntamento di questa sera all'Isola del Cinema qui a Roma, l'orario? Alle 22, perché all'aperto, alle 22. Che è lo schermo tevere, okay. E ci sarai tu? Insomma, sì, ci sarò io, Marco Giusti e Mario Sesti che presenterà il film. Un saluto allora a Mario Sesti e ci sentiamo alla prossima Luca. Grazie a voi. Un abbraccio. Buona giornata, buon lavoro, arrivederci. Ciao. Luca Ferrari, regista del documentario Showbiz. Abbiamo in collegamento Lucio Viglierchio, regista del documentario Luce Mia, in uscita in sala e online a partire dall'altro ieri, 21 giugno. Lucio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille. Allora, raccontaci un po' di questo lavoro. Cos'è Luce Mia? Allora, Luce Mia è un documentario che ho girato tra il 2012 e il 2013. E la mia storia è la storia di Sabrina, che è una ragazza che ho incontrato nel mio viaggio di ritorno nel reparto di ematologia, perché io mi sono ammalato di leucemia acuta nel 2010 e dopo una serie di cure sono guarito. Nel 2011 ho avuto la mia prima figlia e ho deciso di rientrare nelle stanze in cui mi ero curato all'inizio, perché volevo descrivere un po' quella realtà, che è una realtà molto particolare, anche per le cure che vengono fatte, l'isolamento, insomma ci sono tutta una serie di pratiche molto molto particolari. E quando sono rientrato ho incontrato Sabrina, che aveva la mia stessa età quando sono entrato in reparto e stavo facendo le mie stesse cure, quindi ci siamo presi per mano e siamo andati incontro, insomma, a quello che sono state le sue cure. Senti, ecco Lucio, la curiosità è rispetto a questo incontro, ecco, com'è stato il percorso umano a due all'interno della malattia? Guarda, in realtà all'inizio io ho proprio invaso uno spazio veramente privato, quella della stanza di cura, quando ti fanno la chemioterapia, però in qualche modo sentivo che sia per me che per lei era fondamentale questa cosa, nel senso che io rappresentavo la speranza. Io ero passato da lì, avevo una figlia, cioè ero vivo, ce l'avevo fatta, e lei per me era proprio un modo per rendermi conto, per guardare la ferita che avevo in qualche modo. Quindi all'inizio è stato molto impostato, diciamo, sulla routine del reparto, su quello che ti capita, sulla nausea, sulla caduta dei capelli, eccetera eccetera. Invece la cosa secondo me interessante che viene fuori anche dal film è che da un certo punto in poi il nostro rapporto, oltre ad essere un rapporto, diciamo, tra paziente e paziente, è diventato un rapporto tra un amico e un'amica. Mm-hmm. E diciamo, quando passa quel livello lì si comincia a parlare di vita, di morte, di quello che ci sta capitando. Mm-hmm. Lucio, cosa ha rappresentato per te il dopo malattia, compreso anche la scoperta della paternità? Guarda, io per esempio sul film, il film l'ho vissuto, è una catarsi in fondo, e per me è importantissimo aver legato alla mia leucemia anche leucemia questo film, perché io nel momento in cui penso a quello che mi è capitato penso anche a questo film, che in realtà è una cosa, per quanto dolorosa, bellissima in qualche modo. Quindi per me è la vita in qualche modo, cioè va molto oltre il film. E dall'altra parte ovviamente spero di aver riportato nel film, ma se Sabrina lo fa bene, Sabrina è molto più probabilmente capace di me esprimere questa cosa, tant'è che ha accettato appunto di farlo, di esprimere questo attaccamento, questo valore, la bellezza della vita, fondamentalmente, di quello che abbiamo. Mm-hmm. Essenzialmente. Mm-hmm. Lucio, volevo sapere anche come è stato vissuto il tuo lavoro da chi ha attraversato e sta attraversando la malattia? Allora, dipende molto. Allora, diciamo, i pazienti secondo me non sono i principali destinatari di questo lavoro, cioè okay. Chi sta attraversando in questo momento. Mm-hmm. Secondo me è interessante per chi l'ha passata, per i parenti per esempio, ed è altrettanto interessante, in realtà è un film per tutti, cioè che, nel senso che ognuno di noi in vari modi è stato sfiorato da questa cosa, da una malattia o da un amico, o da, insomma. Quindi in realtà è una riflessione sulla vita. Dall'altra parte c'è tutta la parte sanitaria, medici, infermieri, che in realtà sono rapiti e sono felicemente rapiti da questo film, nel senso che vedono il loro lavoro con occhi diversi, nel senso che ci sono delle cose che loro fanno come routine, dei movimenti, delle pratiche che improvvisamente acquisiscono nel buio della sala un senso, no? Quasi una poesia. Mm-hmm. E quindi secondo me per loro è catartico in qualche modo. Mm-hmm. Quindi per me è un film per tutti. Devo dire, per chi sta attraversando in questo momento quella cosa, può essere un motivo di estrema forza, può essere anche una cosa, come dire, in qualche modo un di più, nel senso che le persone che stanno attraversando, quindi in realtà è un racconto di questo viaggio. Senti, ci spieghi anche le modalità di uscita? Io davo come indicazione il 21 giugno scorso, non solo la sala ma anche il web. Esatto, allora dal 21 al 29 siamo al Massimo di Torino, sul sito leucemia.it si trovano anche le altre diciamo uscite in giro per l'Italia, perché attraverso l'AIL, l'Associazione Italiana Leucemie, stiamo facendo delle proiezioni in giro per l'Italia. In questi giorni si trova su MyMovies a disposizione, e poi a breve sarà sul nostro sito, sempre leucemia.it, diciamo a pagamento scaricabile. Benissimo. Allora, io ti ringrazio, Lucio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille, grazie dell'opportunità. A presto. Ciao. Lucio Viglierchio, regista del documentario Leucemia, in uscita in sala e online a partire dallo scorso 21 giugno. Eccoci con Salvo Cuccia, regista del film Lo Scambio, in uscita in sala oggi, giovedì 23 giugno. Salvo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, ciao. Ci eravamo sentiti un po' di tempo fa per un tuo documentario, ora un film di finzione. Parlacene un po', Salvo. Sì, intanto dico subito che è un film prodotto da Eleonora Cordaro con Abracadabra, con Rai Cinema e la Film Commission Sicilia, e poi una serie di imprenditori siciliani, tra cui il più importante Elenca, produttore di basi per gelate. Perché dico questo? Perché molti imprenditori hanno partecipato a questo film con la coerentemente alla, a quello che è il film, insomma, come tematica, perché è un film molto, che ha una storia molto molto dura, anche cupa per certi versi, è una storia vera. Nasce il soggetto, la sceneggiatura nasce dall'incontro che ebbe anni fa con Alfonso Sabella, il magistrato, che negli anni 90 era nel pool di Caselli e che si occupò di casi abbastanza grossi, insomma, di arresti di grandi boss, ha condotto, insomma, investigato e condotto arresti eccellenti. Quindi la storia si svolge a metà degli anni 90, sì. E la storia è una storia in cui i personaggi nel film non hanno nomi, proprio perché per andare verso un eccesso di omertà al punto in cui nessuno chiama nessuno per nome, è tutto concentrato in un giorno, e in realtà, nella realtà i fatti a cui ci riferiamo sono accaduti nell'arco di un anno. Ora tengo a dire una cosa, è una storia ispirata a una storia vera, ma che poi in senso cinematografico prende la sua strada, nel senso che attraverso il lavoro che ho fatto di impostazione, di stile e di visione, soprattutto, perché è un film di visioni. Quindi sì. mi volevo staccare un po' dal cliché, diciamo, di film di oggi che parlano di violenza, tutte queste cose qua, intanto perché non, un po' le pistole rimangono fuori campo, gli spari sono fuori, diciamo, gli spari sono fuori, perché ci concentriamo invece sui personaggi e sulle viscere dei personaggi, sull'interiorità e sulle viscere dei personaggi, perché è una storia molto molto truce, molto cruda, che è una storia di cause ed effetti, cioè praticamente è un'ecatombe, non c'è nessuna possibilità di transfert con il protagonista negativo, come avviene spesso invece in altre nelle fiction, anche TV, ma non senza nessuno, perché non me ne vogliono, perché lavorano molto bene, oggi ci sono delle cose molto belle. E io mi distacco, ho preso le distanze da tutto questo cinema facendo un film soprattutto psicologico, diciamo, e interiore. Senti Salvo, in base a questa tua conoscenza e all'ambientazione negli anni 90, cos'è stato di questo personaggio reale che hai conosciuto nella vita che ti ha spinto a realizzarne un film? Ma perché appunto non è una storia che ti può indurre ad avere un... non è un personaggio che vince, insomma, è un personaggio che comunque soccombe, e quindi è una storia morale. In fondo vale questa legge del contrappasso, cioè della causa di causa ed effetto, come dicevo prima, e quindi mi ha colpito particolarmente, è suggerito da una realtà che poi è abbastanza, come dire, sembra tutta finzione, invece molto viene dalla realtà, e quindi in quello, diciamo, mi aggancio al documentario. Come concettualmente il film è film, sì. Diciamo, il film è cinema, questo, insomma. Sì, sì. E siccome è una storia molto dura, e tra l'altro una storia in cui ci sono soccombono anche vittime della criminalità che non c'entrano nulla, e questo tengo a sottolinearlo, mi ha colpito questa cosa perché in quegli anni, ma anche oggi, non solo a Palermo ma anche in altre città, in quegli anni perché erano più tragici, tutti, la società è tutta un mix, dico, non è che esistono i mafiosi da una parte che stanno, sì. La società e poi la polizia che cercano, è tutto siamo tutt'uno, insomma, e quindi soprattutto da giovani si possono avere delle compagnie di persone che sono censurate, persone che sono figli di boss, no? Sì. Si frequentano, hanno 15, 16, 17 anni, 18 anni, non tengono conto, non si tiene conto lì di certe cose, insomma, di, e quindi può accadere, siccome è tutto una mescolanza, no? Non c'è niente che sta fuori, perché a volte le rappresentazioni sono un po' falsificate, nel senso che si pensa appunto che i mafiosi siano nei loro antri, no? Cioè sono persone che vivono come tutti gli altri, praticamente hanno le stesse emozioni di tutti gli altri, come sappiamo e come è stato anche raccontato in molti film, per cui è anche un omaggio alle tante vittime di mafia che sono state uccise per sbaglio, perché poi in certi quartieri si pensa sempre all'infallibilità della mafia, invece in quegli anni soprattutto questi facevano un sacco di errori e hanno ammazzato un sacco di gente innocente. Mm-hmm. E questa è la cosa, nasceva da questa considerazione. Poi sì, al di là di questo, ripeto, la storia è talmente già di per sé forte che in sé, no, la dinamica della storia, che è proprio, ha tutte le caratteristiche della tragedia greca, insomma, per cui è interessante, importante, per me era interessante e importante portarla in scena, al di là dei personaggi reali di cui si parla e a cui è riferita appunto con invenzione la storia, insomma. Mm-hmm. Questo. Poi l'incontro con Sabella è interessante anche perché lui negli anni 90 era un trentenne, poi pensate, un trentenne che sta lì con l'esercito, con i sacchi di sabbia dietro la porta, che conduce delle indagini che poi portano ai grandi arresti eccellenti, quindi insomma ho fatto tutto questo quadro, anche se io non mi sono mai occupato in passato, cioè mi sono occupato in maniera anche molto relativa di queste cose, mai avrei pensato di cominciare con un film che parlasse di psicologia criminale, invece poi tutto, la vita ci riserva delle sorprese, perché in fondo avendo lavorato con La storia siamo noi, ho sempre spesso ho lavorato con documentari di storia di recente, no? Per cui anche questo film si riferisce appunto a fatti avvenuti a metà degli anni 90. Tra l'altro nel primo soggetto ho scritto io e Marco Alessi, lo sceneggiatore con cui l'ho scritto, in una Palermo plumbea quasi nordica, e praticamente alla fine la post produzione l'abbiamo fatta in Svezia, per cui più plumbeo a nord di così non si può. Tengo a precisare poi che nella lavorazione non solo abbiamo scritto insieme a Sabelle ed Alessi la sceneggiatura, ma ha partecipato pure mia figlia Federica Cuccia, che ha lavorato con gli attori, ha avuto questa possibilità di fare lo sviluppo di tutte le scene e dei personaggi con gli attori. Questo perché è un film a basso costo e quindi, certo, alla fine c'è un paradosso, no? Accade che gli attori tutti siamo stati tutti molto più disponibili a lavorare pur con un minimo budget, cosa che solitamente invece in film di medio alto budget paradossalmente non c'è, quindi abbiamo avuto la possibilità di sviluppare proprio personaggio per personaggio. Questa è una cosa importante. L'altra cosa che volevo dire è che la Abracadabra, cioè Eleonora Cordaro, distribuisce il film con l'aiuto di molti esercenti, nel senso che c'è stato per la prima volta, forse si è detto nella storia del cinema, gli esercenti adottano un film. Il film è stato adottato da molti esercenti. Senti, cosa particolare. Salvo, dicevi degli anni 90, clima di guerra, molto crudi, ecco, la differenza rispetto a quel periodo, rispetto alla criminalità organizzata oggi a Palermo, ma non solo, ecco, che differenze trovi? Guarda, il film è importante perché è proprio ambientato nel 95, quell'anno, diciamo, è un anno di spartiacque, diciamo. Perché? Perché da lì parte, si propaga un'altra cosa, insomma, chi vince in questa guerra di mafia tra i vincitori, cioè tra i mafiosi vincenti dei Corleonetti, chi vince? Vince la linea di Provenzano, in realtà. La linea di Provenzano è quella che è la linea del business, della sommersione, degli affari. Quindi non è più la linea delle armi, ma è quello della di fare affari, insomma, e quindi sì, sì. È profilo basso e molti affari. Per cui quello che mi diceva Sabella diversi anni fa era: se non altro siamo riusciti con tutta questa serie di arresti eccellenti, tutta questa storia che appunto dai primi anni 90, ad arrivare comunque al fatto che la mafia siciliana a questo punto non è la prima a fare affari illeciti, ma oggi per esempio c'è la 'ndrangheta che fa affari con la cocaina, con altre cose, insomma, poi ci sono i campani napoletani, c'è la mafia siciliana ormai è su un piano, diciamo, più di affari anche internazionali, anche se poi diciamo che non bisogna cioè non è così semplicistico, cioè il controllo del territorio e tutto in una città come Palermo, nelle grandi città esiste ed è combattuto in maniera fronteggiato dalle forze dell'ordine e dai magistrati in maniera, diciamo, molto forte, tant'è che continuamente ci sono arresti, continuamente viene decapitato ogni possibilità di riproduzione di capi, capezzi delle varie zone. E comunque è sempre lì, insomma, c'è sempre il livello di attenzione è sempre altissimo, è sempre e le forze dell'ordine stanno proprio lì a fronteggiare. Tra l'altro, in tutto questo il film, per esempio, è riconosciuto sia da Libera che da Dio Pizzo, che l'ha appunto adottato, anche Dio Pizzo ha adottato il film, e Dio Pizzo è questa associazione di giovani palermitani che poi anni fa uscì fuori con questi cartelli anonimi, no, in tutta la città, che dicevano: un popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità, e non si sapeva chi fossero, no? Poi si è sviluppata tutta questa, sono venuti fuori e hanno creato questa associazione che oggi conta non so quanti imprenditori e quanti commercianti che hanno aderito, e c'è proprio il simbolo di Addio Pizzo nei negozi o nelle attività. Quindi il livello, ripeto, è sempre alto, rimane, però certamente il periodo di cui parlo io è il periodo che va subito dopo le stragi, no? Le bombe e lo stragismo, no? I primi anni 90, poi con questa, a metà comincia questa linea di Provenzano, infatti la maggior parte di quelli che sono arrestati vanno più sul versante di Rina, Bagarella e Brusca e tutto il resto, mentre Provenzano, profilo basso, arriva poi molti anni dopo a essere preso, insomma, e vince la sua linea, quella appunto degli affari. Salvo, io ti ringrazio, ricordiamo lo scambio in uscita in sala a partire da oggi, lo giovedì. Scambio, sì, volevo dire, noi esce in tutta la Sicilia, già in 10 o 12 cinema, più uscirà, soprattutto la cosa da dire è importante, la prima a Roma è il 30 giugno, dal 30 giugno al Cinema Adriano. Mentre dal 1 luglio sarà a Milano al Cinema Palestrina, quindi un'uscita scaglionata. Come? Un'uscita scaglionata, insomma. Sì, piano piano, perché poi esce pure a Napoli e in altre città. E comunque a Roma siamo dal 30 giugno al Cinema Adriano. Un abbraccio, quindi, Salvo. Invito. E a risentirci presto. Grazie tante, grazie. Ciao Salvo. Arrivederci. Ciao. Salvo Cuccia, regista del film Lo Scambio, in uscita in Sicilia da oggi, giovedì 23 giugno. Eccoci con Carmine Amoroso, regista del documentario Porno e Libertà, in uscita in sala da domani, venerdì 24 giugno, documentario al quale abbiamo dedicato la copertina della trasmissione di questa settimana. Tra l'altro ti saluta Ottavia Monicelli, che è qui vicino a me. Ciao Ottavia. Allora Carmine, benvenuto, un documentario che ho avuto modo di vedere, raccontiamolo brevemente a chi ci sta ascoltando, Carmine. Beh, un documentario così che in cui, diciamo, io traccio una linea comune ad alcuni personaggi degli anni, specialmente insomma, che hanno vissuto negli anni 70, no? Alcuni ribelli, anticonformisti, mi sono un po' divertito, ecco, cioè a raccontarli e a raccontare anche appunto la pornografia, però in modo particolare in rapporto alla controcultura degli anni 70, cioè tutti sanno che è stato un fenomeno molto diciamo irruento qui in Italia, no? Specialmente poi alcune riviste in modo particolare, cioè Fennuto, Frigiderra, insomma ricordiamo poi Pazienza, insomma personaggi, voglio dire, mitici, e quindi ho cercato appunto di unire questi due fenomeni, insomma la pornografia e la controcultura di quegli anni. Ecco, per esempio ti dico subito questa cosa rispetto al titolo: già Porno e Libertà con quella e commerciale mi ha fatto venire in mente subito il fatto che la liberazione sessuale in Italia non è arrivata attraverso una rivoluzione come è stato magari in Nord Europa o negli Stati Uniti, ma dal mercato del porno poi alla fin fine. Beh sì, effettivamente sì, perché poi è partito tutto quanto un po' da, come racconto, ecco, da Riccardo Schicchi, all'inizio da Lasse Brown, questo personaggio un po' mitico che io stesso tra l'altro un po' ignoravo, anche perché io non è che sia un esperto di pornografia, no? Cioè sono un po' interessato a questo fenomeno partendo appunto da Riccardo Schicchi, ma partendo anche dal fatto che noi abbiamo raccontato pochissimo di pornografia, mentre per esempio in America, no, ci sono stati film anche molto interessanti, no, legati a personaggi come Larry Flint, cioè sì, ricordiamo sì, i film di Forman, insomma. Quindi io ho incontrato poi Riccardo Schicchi, mi ha talmente colpito, no, questa figura, e ho deciso di capire un po' prima io, no? E quindi mano a mano di scoprire, quindi è stata una scoperta che io ho fatto, e dicevo appunto Lasse Brown, che questo personaggio che in realtà è appunto italianissimo, si chiama Alberto Ferro, che era andato nei paesi scandinavi perché era figlio di un diplomatico, e da lì appunto aveva cominciato un po' a capire, no, a riflettere anche lui, no, cioè del come mai non si poteva neanche vedere, no, un'immagine di una donna nuda, eccetera, e quindi lui inizia questo percorso. In effetti appunto diciamo che un po' la nostra liberazione, la liberazione sessuale, cioè quella che c'è stata negli anni 70, è stata sì effettivamente influenzata, insomma, ecco, da questi personaggi come Riccardo Schicchi, poi insomma vedremo anche Ilona Staller, sì, che ricordiamo è stata la prima, no, a sedere in un Parlamento, la prima pornostar, ma all'epoca non esisteva neanche il termine pornostar. Sì. Senti, un percorso piuttosto lungo e complicato a partire dalle fotoriviste. In Italia si rischiava di finire in galera anche per il possesso di materiale di questo tipo, e poi si è arrivati ai film, un mondo anche legato allo spettacolo, come dicevi, soprattutto legato al personaggio di Ilona Staller in Arte Cicciolina. Quindi un percorso abbastanza laborioso e sofferto, anche perché c'erano due capisaldi come la Chiesa e il Partito Comunista che a difendere una sorta di puritanesimo. Beh sì, insomma, ricordiamo in quel periodo chiaramente c'era una Democrazia Cristiana naturalmente molto molto forte, quindi legata anche molto da noi stesso chiaramente alla Chiesa Cattolica, no? E quindi i discorsi legati al sesso, alla sessualità insomma erano assolutamente vietati. C'era anche un Partito Comunista, ricordiamolo, anche molto diciamo moralista, no? Sì. Ecco perché io ho cercato di raccontare gli anni 70 da un altro punto di vista, perché generalmente poi sono stati raccontati secondo me sempre o come gli anni del terrorismo, delle Brigate Rosse, no, della lotta armata, eccetera, oppure diciamo sotto uno sguardo un po' più diciamo edulcorato, ecco. Mancava una parte secondo me un po' libertaria di quegli anni, no, legata come dicevo prima alla controcultura, anche a riviste, ripeto, come il Rinnudo, come il Frigidaire, insomma eccetera eccetera. Sì, sì. Senti, sulla scelta degli interlocutori, tra i quali compare un personaggio importante legato anche in maniera molto forte a questa radio come Porpora Marcasciano, ecco, sì, come è avvenuta l'idea di questa scelta di interlocutori? Ma guarda, io adesso però riflettendo mi sono accorto che in fondo ho raccontato un po' me stesso, no? Cioè, ho legato dei personaggi che bene o male conoscevo, comunque persone che a parte che sono tutte persone simpatiche, no? Fatto proprio una specie, no, di linea, no, di, come dicevo, di filo rosso Porpora chiaramente, insomma, io lo conoscevo, eccetera. Poi lei aveva scritto anche un libro meraviglioso sugli anni 70, sì. No? E quindi no, diciamo che è, probabilmente forse è anche molto autobiografico, no? Cioè sono i miei ricordi, cioè il mio immaginario, no, di quegli anni, ma anche forse il cinema un po' che ho amato, da anche Ferreri, Bertolucci, e poi in modo particolare chiaramente il filone americano di, ricordiamo, insomma, di Flash, Trash, eccetera, cioè della scusami, di Andy Warhol, insomma, sì. della Factory di Andy Warhol. E quindi sì, insomma, ecco, diciamo che è un po' un film anche un po' autobiografico, un documentario, ecco. Ecco, dal punto di vista cinematografico hai citato Andy Warhol, c'è anche stato il caso dal punto di vista teatrale dell'esperienza del Living Theater, e dal punto, sempre tornando dal punto di vista cinematografico, Bertolucci con Ultimo Tango a Parigi, Porci con le ali, e comunque come si racconta anche nel tuo documentario, tra i primi spettatori di questi film porno c'erano anche intellettuali. Beh sì, perché chiaramente era un fenomeno talmente, no, cioè vuol dire, in quegli anni vedere un corpo nudo, poi tanto più, non lo so, io mi ricordo Pasolini fece vedere il primo pene in erezione, sì. Quindi che era uno scandalo, cioè uno shock, proprio uno shock visivo, quindi è chiaro che poi tutti quanti un po' andavano a vedere, erano curiosi, no? Erano curiosi del porno. Mi raccontava per esempio Vincenzo Sparagna che lo stesso Pazienza, no? Cioè andava in cinema a luci rosse, e insomma alla fine era anche divertente tutto quanto questo. Poi è chiaro che tutto si è trasformato, cioè io racconto un po' gli inizi, no? Cioè quando il porno era vissuto anche appunto in maniera politica. Sì, sì. Ecco, e a proposito degli inizi, all'inizio il movimento femminista organizzò anche delle contestazioni di fronte ai cinema porno, in quanto il porno inizialmente in Italia era ad uso consumo maschile e portava un'oggettivizzazione della donna. Ma sai, questo schieramento, c'è sempre questo schieramento diviso, no? Cioè alcune, sì, femministe che chiaramente erano a favore e altre contrarie, no? Ricordiamo, nel mio documentario c'è anche Giuliana Gamba, che poi insomma è stata anche una donna che ha combattuto, che ha fatto documentari molto interessanti anche sulle donne in Afghanistan, eccetera, che all'inizio però aveva appunto iniziato con il cinema porno, no? Come, sì, gesto di ribelle o anticonformista. Altre invece, naturalmente, alcune femministe all'epoca appunto vedevano la pornografia, l'associavano addirittura allo stupro. C'era un gruppo tedesco appunto di femministe legate ad una rivista che appunto facevano l'associazione pornografia-stupro. Quindi insomma è un po' ambivalente. Io ho cercato di trovare con Lidia Ravera, no, che ricordiamo appunto l'autrice di Porci con le ali, femminista, eccetera, un punto, no, cercare un po' di riflettere su questo, però è chiaro che una contrapposizione c'è stata e probabilmente continua anche ad esserci. Adesso. Anche se poi pensando agli inizi e pensiamo al dato odierno, c'è stato un enorme sviluppo del percorso della pornografia, se adesso si arriva, anche perché prima era gestita a livello di mercato, adesso c'è il video amatoriale, c'è il YouPorn, le persone autodeterminano anche il proprio apparire rispetto al sesso. Ma sicuramente, guarda, io però penso che la pornografia sia un linguaggio molto interessante da analizzare da un punto di vista anche concettuale, cosa, sì, che non è stata mai fatta. Invece, cioè voi pensate che insomma, la pornografia è uno dei fenomeni più pervasivi, no, del nostro immaginario, eccetera, ma anche quello più stigmatizzato, no? Quindi veramente esprime un punto di contraddizione, di ambiguità, che dovrebbe essere veramente studiato con molta attenzione. Probabilmente cioè diciamo che ci sono degli studi forse più accademici, no? Mentre poi in genere appunto il cinema, eccetera, non ha ancora trattato a fondo e con seriamente questo fenomeno. È chiaro che nel corso del tempo, io poi dico, cioè ho avuto modo molto, ripeto, di riflettere su questo. Io penso che la pornografia comunque sia sempre un passo avanti perché anche dal punto di vista tecnico, perché è stato sempre, no, cioè sono stati sempre utilizzati dei mezzi, no, cioè ricordiamo il VHS, cioè la diffusione VHS per esempio è stato dovuto anche molto alla pornografia, sì, no? Sì, cioè sì. DVD, poi insomma ha sempre utilizzato dei mezzi nuovi. Oggi c'è secondo me una specie di automizzazione, no? Cioè di categorizzazione, no? Del desiderio, sì. No? Cioè vediamo YouPorn, ci sono tante finestre, no? Come facenti parte quasi dei nostri desideri, insomma, o anche delle nostre perversioni. Comunque, ripeto, secondo me rispetto all'immaginario contemporaneo è sempre un passetto avanti, quindi bisognerebbe veramente studiarlo con molta attenzione. Non è un caso poi che la stessa Ilona Staller sia stata il soggetto di diverse opere artistiche, come anche ricordi nel documentario. Ma sai, sì, Ilona Staller naturalmente a un certo punto ha rappresentato un, insomma, da un punto di vista globale, no? come dice anche raccontava Marco Pannella nel mio documentario, cioè ha avuto un boom che tutti ne hanno parlato. È chiaro che una che faceva porno all'interno di un parlamento è stata eletta, quindi voglio dire tutto il mondo ne ha parlato ed è diventata all'epoca, era, ma lo è tuttora, un'icona, no? E quindi quest'icona è stata secondo me anche un po' sfruttata, no? dal suo poi marito Jeff Koons, che secondo me l'ha trattato un po' come fosse, so, il barattolo della Campbell di Andy Warhol, no? E sì, insomma, sì, perché evidentemente appunto siccome attraverso il porno, come dicevo prima, cioè passano talmente tante istanze, no? Politiche, sociali, ma anche legate al mondo naturalmente dell'arte, no? Sì. Cioè, quindi Jeff Koons ha capito, chiaramente aveva capito già tanti anni fa, che attraverso il porno si poteva raccontare molto, cioè era un linguaggio appunto che rispecchiava la contemporaneità. Mm-hmm. Carmine, io ti ringrazio. Ricordiamo allora Porno e Libertà in uscita con I Wonder Pictures a partire da domani, venerdì. No, scusami. Io vi ringrazio se ti interrompo, perché in effetti c'è stato un cambiamento, quindi l'uscita okay. È oggi. Uscita cioè, è oggi. Esce oggi. In appunto siamo in 16 sale, perché diciamo, per fortuna siamo stati inseriti nel circuito cinema che fanno il change naturalmente di giovedì, quindi abbiamo anticipato di un giorno l'uscita. Quindi esce da oggi. Allora un abbraccio, a risentirci presto Carmine. A tutti voi. Ciao, grazie, un abbraccio. Carmine Amoroso, regista del documentario Porno e Libertà, in uscita in sala da oggi giovedì 23 giugno. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Francesca Fini, regista del film Ofelia non annega, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Come va? Tutto bene? Bene, benissimo. Allora, ho avuto modo di vedere il tuo film al Macro l'altro giorno, era stata una proiezione di presentazione, perché comunque il film avrà un circuito, una circuitazione di gallerie e musei, non sarà in sala, giusto? Essendo un prodotto veramente molto ibrido, ho deciso comunque di organizzare delle uscite che sono un po' ammirate rispetto anche il tipo di prodotto è, sì, che è sostanzialmente un'opera di videoarte, quindi che viaggia anche insieme a delle installazioni e a delle performance, per cui in qualche modo l'ambiente più adatto è proprio quello dei musei e delle gallerie per il momento, anche se poi è stato proiettato all'interno di cinema in giro per il mondo e poi verrà proiettato anche all'Apollo 11 a settembre-ottobre, quindi è un prodotto un po' veramente ibrido da questo punto di vista. Ci racconti un po' questo riferimento a Shakespeare? Sì, il progetto è nato quando l'Istituto Luce, che ha digitalizzato tutto il suo archivio e lo ha reso disponibile per consultazione, ha deciso di chiamare alcuni videoartisti e autori per cercare anche di rielaborare o comunque manipolare questo materiale e inserirlo all'interno del proprio lavoro. E io ho deciso di fare un film, un vero e proprio lungometraggio di 90 minuti, in cui il lavoro che io faccio normalmente, che è quello della video performance, e della performance d'arte, della videoarte, entrasse in una sorta di dialogo con la storia, che poi è la storia nazionale, quindi anche la storia mia personale. Mm-hmm. E la memoria entra proprio all'interno del DNA quasi, no? Quindi alcune immagini che ho visto in questo materiale, che appartenevano a un periodo estremamente lontano, io comunque quasi in qualche modo ce l'avevo introiettate all'inizio, è come se le avessi vissute, no? In questo viaggio nell'archivio, quindi è veramente un viaggio anche nella memoria personale. Creando una sorta di dialogo con il materiale video performativo originale, e sono due linguaggi diversi, chiaramente anche due modalità di racconto completamente diverse, e quindi dovevo trovare in qualche modo un elemento, un fil rouge che potesse mettere insieme questi elementi, e ho pensato a questa figura femminile, Ofelia, reinterpretata, decontestualizzata completamente, ricollocata in questi paesaggi laziali, assolutamente mediterranei, assolutamente diversi dall'immaginario collettivo in cui si inserisce questa figura nordica, e seguire le vicissitudini di questo personaggio, che poi in realtà è incarnato da donne diverse, di diverse età, di diversi aspetti. E questo elemento poteva diventare proprio il classico filo rosso che ha cucito insieme materiali così diversi, il digitale, materiale invece fatto in pellicola, il bianco e nero con il colore saturissimo che io uso nel mio lavoro. Quindi diciamo, io in genere lavoro molto con le figure letterarie femminili, decontestualizzandole, creando delle storie diverse all'interno proprio della mia videoarte o delle mie performance. Quindi in questo caso mi sembrava che Ofelia potesse essere un personaggio giusto, adatto a rappresentare anche la terna lotta per la sopravvivenza dell'arte, del teatro, della performance. Senti, a proposito del materiale ad archivio del Luce, immagini del surrealismo, del futurismo, della Beat Generation, cosa rappresentano per te? Beh, rappresentano dei momenti di grande vivacità culturale, intellettuale, emotiva, che sono stati raccontati benissimo nel Luce all'interno dei suoi documentari, di molti prodotti che esistono all'interno dell'archivio, che parlano dell'arte, degli artisti, dei movimenti artistici, e rappresentano questo desiderio di andare avanti, di scoprire, di portare un messaggio nuovo e di diffondere una nuova modalità di fare arte, no? Di fare cultura. Quindi erano all'interno del film rappresentano quasi una sorta di grande esplosione di energia. Senti, allora facevi riferimento prima alle figure femminili legate in qualche modo a contesti violenti, dalle palpebre cucite al velo integrale al sangue, ecco, come mai questa scelta? Io leggo sempre moltissimo le figure femminili a figure di grande violenza, ma questo perché in qualche modo, a parte io, diciamo, io uso l'immagine o la performance che ha dei risvolti violenti, poi violenti fino a un certo punto per me oramai sono quasi dei rituali, e in ogni rituale anche che include in qualche modo violenza io trovo in realtà una sorta di poesia, una sorta quasi di preghiera più che altro, però chiaramente riconosco che alcune immagini del film sono violente, perché attraverso quel momento di violenza si sospende un po' anche quel processo di catalogazione che chi guarda o chi osserva soprattutto un prodotto che non è narrativo fa immediatamente. Quindi guarda un'opera di videoarte o comunque un'opera astratta, un'opera non narrativa, in cui non si immedesima, cercando di capire dove il racconto voglia andare a parare, perché non c'è racconto, non lo trova, quindi è assolutamente. Io per questo io nelle mie performance o nel mio lavoro, diciamo, video performativo o di videoarte, io cerco di creare dei momenti di shock che in qualche modo sospendono questo processo cartesiano di cercare di trovare il filo conduttore che ti non impedisce alla persona di immedesimarsi. Allora proprio quello che voglio è che invece la gente si lasci andare completamente, una sorta anche di ipnosi all'interno del mio lavoro, e che non stia lì appunto a cercare di capire tutto, no? Sì, sì. Perché, come dice Bob Wilson, che è il mio mito, che appunto cerca, riconosce nel pubblico di oggi la necessità costante di capire quello che succede, di capire quello che viene detto, di capire le parole, invece bisogna lasciarsi andare. Sì, sì, sì. Allora, tre elementi mi sembrano costitutivi del tuo lavoro: i luoghi, i costumi e le installazioni. Sì. Sono, diciamo, gli elementi, cioè, sono, diciamo, gli elementi di questa partitura, assolutamente. Sì, sì, sì. I luoghi sono in questo caso quelli del Lazio. Sì. In piena estate, quindi torridi, con questo calore che si percepisce proprio nel sudore degli attori, che sono sempre sudati, sempre accaldati, e io volevo dare proprio questa sensazione di totale mediterraneità e calore e anche fatica proprio fisica a una storia che invece sostanzialmente ci immaginiamo in una brughiera, ci immaginiamo in un paesaggio nordico a picco sul mare, su una scogliera, no? E invece dare un senso totalmente, un paesaggio, diciamo, inserire questa storia in un paesaggio completamente diverso. Mm-hmm. I costumi sono, in realtà, il costume principale del film è questa casacca con questi nastri cuciti ai polsi, che in qualche modo richiama in maniera abbastanza minimale e metafisica la camicia di forza, mm-hmm, che è l'elemento che caratterizza la pazzia, quindi, però è come, non sono legati questi legacci, quindi sono come a ricordare che Ofelia potrebbe essere in effetti intrappolata da un momento all'altro. Mm-hmm. E poi le installazioni con cui i performer all'interno del film interagiscono in continuazione, mm-hmm, create appositamente proprio per il film. Sì, sì. E il rosso è poi un punto fondamentale che torna ed è sempre presente. Sì, è un po' una caratteristica. C'è qualche mio amico che mi prende in giro e mi dice: ah, adesso userai il solito rosso Fini, no? Come il rosso Ferrari. Perché in effetti è un elemento che fa parte del mio lavoro e di cui non riesco a liberarmi. Lo ammetto, devo dire. Capisco. Anche perché te ne devi liberare, tra l'altro. No, perché in effetti diventa un po' troppo caratterizzante, ah, sì, no? Forse. Dici sempre gli stessi elementi. Però ci sono degli elementi, tra cui questo colore rosso ciliegio, rosso sangue fortissimo, che io uso perché è il simbolo del potere, quindi, e lo associo sempre, okay, alle donne, quindi, mm-hmm, anziché sul mantello dell'imperatore, il rosso è indossato dalle donne, quindi è un simbolo di potere. Mm-hmm. Senti, Francesca, in chiusura, visto che, come abbiamo detto all'inizio, non avrà una circuitazione nelle sale, uh-huh, vuoi darci dei riferimenti web per saperne di più? C'è una pagina Facebook sicuramente. Sì, basta andare sul mio sito, che è francescafini.com. Benissimo. E lì ci sono i miei progetti e c'è tutto, c'è anche questo Ofelia non annega. E sì, avrà una circuitazione adesso, le prossime cose, a parte l'Apollo 11, andrà ad Annecy. Sempre sotto forma di installazione, per il Festival Image Passage, sempre come però un'installazione, e in vari altri musei e gallerie del mondo. Questo, diciamo, è l'appuntamento più importante. Sì. A settembre. Sì. Comunque io tengo il sito sempre aggiornato, per cui. Ok, per l'Apollo 11 già è fissata la data? Ancora no. Ancora no, avremo modo di parlarne magari. Francesca, io ti ringrazio, complimenti, un abbraccio e a presto. Grazie a te. Ciao. Ciao. Francesca Fini, regista del film Ofelia non annega. Eccoci con Alfi Nze, regista del documentario Devil Comes to Coco. Alfi, benvenuto a Radio Onda Rossa Visionari. Grazie mille, grazie dell'invito e dell'opportunità, grazie. Allora, il tuo film era uno di quelli che facevano parte di una rassegna dedicata allo sguardo dei migranti, ma anche delle seconde generazioni qui in Italia. Raccontiamo un po' brevemente di cosa tratta il tuo film, Alfi. Sì, il film tratta dell'invasione. Immediatamente il film parla di due invasioni, ma sì, concentrata di più sull'invasione nel 1987 del villaggio di Coco, con rifiuti tossici industriali arrivati dall'Italia, dalla Norvegia, anche dalla Germania dell'Ovest, però portati là con il connubio di businessmen italiani che li hanno lasciati lì a cielo aperto per 9 mesi. Mm-hmm. E allora poi con l'azione di studenti nigeriani che studiavano in Italia, un'azione eclatante di un professore universitario di Firenze, il professor Enrico Falqui, e l'indagine di una giornalista, Rachele Gonnelli, sono riusciti a portare informazioni in Nigeria sul fatto che quei bidoni che c'erano anche scritto dono del governo italiano non contenevano doni ma bensì rifiuti tossici industriali. Senti Alfi, come sei venuto a conoscenza di questa vicenda? E poi volevo chiederti anche se è stata poi affrontata dai mezzi di informazione, se è uscito fuori il caso. Sì, infatti proprio attraverso i mezzi di informazione sono arrivato in quell'88 quando è scoppiata la notizia, perché questi studenti hanno mandato i giornali pubblicati in Italia che parlavano di questo fatto. Loro hanno fatto una colletta, studenti nigeriani all'epoca che studiavano a Pisa, hanno fatto una colletta mandando queste informazioni in Nigeria ed è scoppiata, era per mesi e mesi proprio la storia di Toxic Waste da lì, da From Italy, era proprio, infatti io all'epoca ero un teenager, l'ho seguito proprio sui giornali ed mi è rimasta colpita in testa questa roba qui. Allora in questi anni dopo ho fatto uno spettacolo teatrale, scritto poi, andando avanti scrivendo un film, un documentario un po' particolare teatrale con l'aiuto della produzione di Fabbrica di Treviso e del premio Muti che aveva vinto il progetto nel 2013, sono riuscito a portare a casa il lavoro. Mm-hmm. Senti Alfi, cosa è cambiato dopo che è esploso questo caso? La situazione, sono stati smantellati questi rifiuti tossici? Come è cambiata la situazione, se è cambiata? Ma infatti allora questo è stato uno dei primi casi nel mondo in cui un paese costringe un altro paese di venire a ritirare i rifiuti tossici. Stiamo parlando dell'88, prima ancora della morte di Laia Alpi nel 94, se non ricordo male. Allora all'epoca il governo nigeriano costrinse quello italiano, che guidato da De Mita, a mandare le navi a ritirare questi rifiuti. Il problema è che poi le persone che hanno caricato, hanno ricaricato i rifiuti dentro le navi, quindi gli abitanti di Cocò e i lavoratori nigeriani, tanti sono morti perché non erano adeguatamente protetti per caricare quei rifiuti. La terra di questo posto, lì dove erano stati stoccati le cose, la terra ricorda ancora, perché era proprio questo il motivo del mio viaggio. Volevo proprio andare a vedere con i miei occhi cosa ricorda la terra di Cocò di quell'evento. Infatti è tutta una zona verde, verdissima, ma tutta quella zona dove hanno stoccato questi rifiuti, l'erba cresce ancora con i capelli bianchi come un uomo anziano. Quindi sono seguiti morti documentati, non documentati, ma che gli abitanti di Cocora raccontano oggi, che loro vivono ancora le conseguenze di queste cose qui. E non ci fu nessun tipo di risarcimento né dal governo italiano, tantomeno da quello nigeriano. Quindi ho avuto anche proprio grosse difficoltà a entrare in questo villaggio a cercare di intervistare le persone, perché non volevano che io venissi lì a ficcare il naso, perché anche loro hanno vissuto questa cosa come un incubo in quegli anni, in cui era stato invaso da giornalisti esteri e quanto altro, quindi non volevano di nuovo ricordarsi questa roba qui. Questo. Senti Alfi, per saperne di più sul tuo documentario c'è una pagina Facebook, e poi dove si può cercare oltre a lì? Ma sì, per sapere di più c'è una pagina Facebook, c'è anche uno entrando nel sito di Fabbrica di Treviso, proprio c'è una pagina nel sito di Fabbrica dedicato proprio al film, dove ci sono le informazioni. Adesso stiamo anche pensando di creare una pagina web, una website dedicata proprio al film, dove si parlerà dove mettiamo tutti i link anche di interviste, di proiezioni, di premi, perché comunque il film sta oltre a questo qui di Lega Ambiente, è stato anche premiato da Rende in provincia di Cosenza ad aprile, e quindi il film sta ricevendo una buona accoglienza in Italia, e questo ringrazio, perché proprio viene fuori che, e poi alla fine mi chiedo come mai sono stato io, dopo così tanti anni, come mai nessun altro regista in Italia ha fatto proprio un film di una storia così fondamentale comunque in quegli anni nei rapporti dell'Italia con i rifiuti tossici. Poi allora sono dovuto arrivare io dalla Nigeria per fare un film su un evento così importante anche nella storia recente dell'Italia. Sì. Alfio, io ti ringrazio. Allora, abbiamo ricordato anche gli spazi web dove si possono trovare informazioni, speriamo di risentirci presto. Grazie, vi ringrazio. Poi un'ultima cosa, sì, dico, certo. Anche questo sabato ci sarà una proiezione proprio nella città di Bergamo, sì, dedicata ai profughi nigeriani che vivono a Bergamo, e a Milano il mercoledì prossimo 29 avremo una proiezione nello spazio Macao. Tra l'altro ho girato anche le scene italiane del film qui a Macao, a Milano, nello spazio Macao. Benissimo. Quindi chi è nei paraggi venga avanti. Benissimo. Tra l'altro, okay, precisavo anche che la fabbrica di Treviso è con una B sola, una sola B, fabbrica di Treviso, per chi volesse avere informazioni e sì, cercare. Guarda, poi un'ultima cosa, ma non è per fare pubblicità, tanto loro non hanno neanche bisogno di pubblicità. Ma devo dire onestamente, senza il loro ultimo appoggio, perché loro sono entrati all'ultimo momento e mi hanno tolto proprio le castagne dal fuoco, perché ero in depressione dopo che ho finito di girare Nigeria qui e non riuscivo più a chiudere il film. Loro hanno saputo del film e sono entrati, hanno fatto la post production e tuttora stanno facendo la promozione del film, quindi devo onestamente ringraziare quello che sta facendo Fabrica e quello che ha fatto, e spero di collaborare con loro nel futuro, perché ho trovato un terreno proprio accogliente per nuove idee, anche perché questo non è un film molto facile da seguire, sì, quindi sì. Vi ringrazio anche per questa intervista. Benissimo, allora un okay. Abbraccio e alla prossima, Alfi. Grazie, alla prossima, grazie, ciao. Ciao. Alfi Nze, regista del documentario Devil Comes to Coco. Abbiamo provato un collegamento con Rampace, regista del documentario Sansara Diary, che sarà in programmazione domani, venerdì 24 giugno, qui a Roma, all'Apollo 11, però è impegnatissimo, quindi non è possibile sentire la sua voce direttamente. L'appuntamento l'ho dato io. A questo punto ci salutiamo e appuntamento per giovedì prossimo, Visionari, dalle 14 alle 15. Le informazioni sulla trasmissione e sulla scaletta di quest'oggi le trovate sul sito della radio ondarossa.info, sull'home page, colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito della radio, sull'home page ci ascolta la diretta. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.